chiaro chi sei, figlio di Boemia, dimmi tu perché sei venuto qui. Quando mi stancai dell'Andalusia, e tu vecchio dimmi come fu. La mia terra ormai non esiste più. I cavalli son stanchi nell'umida sera, ma la folta criniera sembra il vento invocare. Stanno gli zingari attorno alle fiamme splendenti, destano ombre giganti nel chiarore lunare. Palpita allor la canzon più bizzarra, nasce dal cuor quel vibrar di chitarra. Questo è il canto di chi non conosce frontiera e l'ardente preghiera del gitano che va. Dimmi dove vai, tornerò in Boemia, me ne andrò lontano per mai più tornare. E tu dove vai? Nell'Andalusia. Tu perché vuoi piangere così? Io son vecchio ormai e rimango qui. O gitano, perché non rimani stasera? Per la nuova avventura puoi domani partire. Resta ancora a cantar nella notte stellata, finché l'alba spietata faccia il sogno svanire. Canta che un dì il gran re di Cuccagna ti regalò un castello in Spagna. Questo è il canto di chi non conosce frontiera e l'ardente preghiera del gitano che...